I'm a cult of personality. A cult of personality. A cult of personality. Appuntamento di questa giornata con lo spazio dedicato ai concerti. Iniziamo con l'Anik & Jamie Festival, che inizia ed è suddiviso in tre giornate. Inizia il 20 di giugno con Iggy Pop and the Stooges, Queens of the Stone Age, Sex Pistols, Linea 77, Linkin Park. Il sabato 21 di giugno i Matmata, Marlene Kunz, Vasco Rossi, e domenica 22 giugno Counting Crows, Baustel, Alanis Morissette e i Police. Il giorno 18 di maggio i Fly Stones saranno dal vivo qua a Milano al Music Drome. Si continua con la data, la prima, questa sera all'Arena di Verona con i Kiss, poi replicheranno in quel di Milano al Dutch Forum il 24 di giugno. Wisneck, Europe, Tiger Tales saranno dal vivo il 23 di luglio in Piazzuola sul Brenta, provincia di Padova, presso la Villa Contarini. Deep Purple arriveranno quest'estate nel mese di luglio in Italia, saranno a Milano il 15 e il 16 di luglio al Teatro Smeraldo. Poi continuiamo con Glenn Hughes, sarà in questo mese di maggio il 26 al Teatro Fanini di Bologna, il 27 al Music Drone di Milano. Metallica 22 di luglio, Arena Parco Nord di Bologna. Con questo termina il nostro primo appuntamento di quest'oggi, il prossimo lo ritroverete nel pomeriggio insieme a Max Deriu. Terminato lo spazio dedicato ai concerti, il nostro appuntamento di Tour de Force, abbiamo ritrovato e riascoltato le note di Take the Long Way Home, grazie ai Supertramp, in arrivo i Tesla con Little Susie. Another way. sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails she makes me wait, and I wait without you. Dopo Little Susie dei Tesla, in apertura di questo Tristassi, Living in the Past per Jeff Rotale e appunto YouTube. Andiamo a chiudere anche la nostra seconda delle consuete tre ore insieme, in compagnia di Marco Gravelli qua su Rock FM, con il brano scritto, interpretato e portato a successo in primis da JJ Cale e poi, forse ancora più sorprendente a livello di successo, questa versione di Eric Clapton, Cocaine. Okay. Okay.